l'altro antenna è quella che è uscita da poco, tipo non mi ricordo la marca, la verità, ma comunque già mi è capito Marco. Ah, poi quel Marco Condore è un cuocuoma, Nemi, cosa ti credi? Quello tu lo sai. Marco ha avuto fortuna con quell'antenna, perché la maggior parte della gente che ce l'ha si lamenta che entra umidità, che gli si fa salire stazionarie. Io ho detto quello che sentivo, infatti lui mi ha detto non si dice quello che sente, si dice quello che si prova. Io ce l'ho 3 anni e non mi ha mai dato fastidio. Ho detto sei stato uno di quelli fortunati, e vuol dire che non è stata saputa piazzare a che è entrata l'acqua. Certo, buonasera a tutti, io ero entrato a gamba tesa, Franco, avevo chiesto in fretta che antenna era, ero curioso sapere se era roba molto performante. Sì, praticamente noi ci siamo, non è che abbiamo fatto niente di speciale, allora tutti i punti sensibili a infiltrazioni di umidità li abbiamo annegati nel vulcanizzante, tutto lì. E poi ha detto che il vulcanizzante non si mette nelle antenne questo qua, perché dice che deve defluire l'acqua, e se non defluisce l'acqua si ristagna e provoca queste cose. Ma allora si dice, il vulcanizzante nelle aggiunture si mette sempre. No, allora, no, vabbè, ho capito cosa intende. Allora, il forellino di scarico dell'acqua, dello stilo, per la condensa interna in caso di molto freddo, deve rimanere libero, ma è un forellino che poi non va dove c'è la bobina o con le cose sensibili, sui punti sensibili non va. Quello deve essere lasciato libero di scaricare l'eventuale condensa, l'eventuale. Però tutti i giunti tra gli stili e tutto quel coso di bobina dove c'è quell'astuccio in plastica, lì tutto stagnato, PL stagnato, tutto lo stagnato, lo sub di teratura, quello è molto importante, tutto stagnato. Vai Franco. È quello che gli ho detto io, che deve avere, cioè, il forellino per l'acqua, per farla defluire. Sì, quello deve rimanere libero. La bobina. Vieni che c'è da me a parlare con l'antenna. Mi dico Marco, come sto salito sul balzetto, è meglio che si caghi sotto lui, il padrone di casa. Comunque io ho per sentito dire, non l'ho mai avuta quell'antenna, ma Natalino che l'ha avuta le ha fatto quel difetto, Leoncino le ha fatto quel difetto, Bobolo le ha fatto quel difetto, tutti quanti le ha fatto quel difetto lì. Non è uno sprovveduto e ce l'ha dovuta buttare anche lui. A me, grazie a Dio, ne ho avuto 2 e non mi è mai successo niente. Dipende dalla fortuna, l'umidità entra anche nelle antenne buone, già di grilli, anche se le vulcanizzi, io sotto il vulcanizzante ho trovato umidità quando l'ho tolto il vulcanizzante, ho trovato umidità sotto, ed era vulcanizzata sopra. Adesso ti spiego una cosa, forse già te lo ricordi. Allora, quell'antenna lì, se ti ricordi, l'ho regalata una a Mario Manzi, se ti ricordi bene, l'ho pensata nel terrazzino. Quando Mario Manzi ha agganciato lineare, gli ho detto, guarda, questa antenna è la mia, gli ho detto, l'ho comprata io, gli ho detto, non la sto usando, gli ho detto, te la regalo, gli ho detto, Mario, e ti facciamo la prova stasera. Ho preso e l'ho agganciata nel terrazzino. Allora, dopo che l'ho agganciata nel terrazzino, prima ho fatto un passaggio con 50. Vabbè, questo ci sono dopo che ho modificato linea naturalmente, 50, 100, seconda posizione, terza posizione 300, cioè, come sono arrivato a quasi a 500 watt, non sai come ho visto il fumo uscire dalla B27L. Mario si è incazzato perché gli avevo regalata io, gli avevo già un'altra, il discorso è quello. Quindi per quello sto succedendo, l'ho presa per prova, però mi sono divertito a un certo punto, sapevo che più di quel cartolino reggeva di watt, però fino a 500 watt ha tenuto 30 secondi, non di più. Ho fatto un passaggio che lì al primo piano dove abitava lui, arrivava a se non mi ricordo male, al monte, anzi non più del monte, verso il centro studio, non adesso mi ricordo, 90 di segnale. Il lineare dava 700 e vato giusti giusti, quello che c'aveva. Era l'unico che usciva come lineare veramente forte, il BV2001, quello trasitorizzato, con 5 finali, no? Figurati tu. Dopodiché ha fatto la fine che ha fatto quel lineare, è sparito, non si sa chi ce l'abbia, ce l'ha un tecnico, non so chi cazzo ce l'abbia, eccetera, eccetera, e basta. Ehi, già me lo ricordo che c'era quel lineare lì, sì. Me lo ricordo, era il tuo quello lì? No, era il suo, non era il mio. L'avevo modificato io, gli ho messo in pratica le resistenze, i tassisti erano quelli originali, li ho modificato solamente le resistenze, per sbaglio, la verità, perché nella partita una di quelle resistenze lì si era carbonizzata. Allora ho preso e gli ho cambiato, gli ho messo quelli da 10 watt per sbaglio. Quando cazzo ho visto la da 400 a 700 watt, una cosa del genere, ho detto, potenza 6 ha aiutato, ma io ho detto, qui è to... ecco, detto, la modifica bisogna fare, gli ho detto, su questi lineari, insomma pompava come un treno, pompava, c'era Gio Maria, già se lo ricordo, Gio Maria, non lo poteva la vita, non lo poteva, quando io abitavo lì, perché in pratica pilotava il lineare con che, se ti ricordi bene, cos'è 80, ti ricordi Gianni? Sì, io mi ricordo che Mario aveva anche un bel apparato, ma era bello, un bel apparato base, che usciva, guarda, fenomenale era, come usciva. Ai, Giannannini. Ai, proprio a Burgia. Urrusa. E a lui. Allora, in pratica, quando abitavo io da Mario, Mario usava il mio 60 con, in pratica, utilizzava lineare con 10 watt di pilotaggio, avevo fatto vedere io, usalo così, sta tranquillo che ci forte. A Castelsardo sai quanto arrivava? 9 più 20 arrivava, era una cosa allucinante. Beh, vabbè dai, scusate, non mi raccolto dell'orario, devo andare che devo andare a portare il cane. Ci sentiamo magari dopo, dai, vi prenderò dalla macchina. Ciao, ci sentiamo, grazie per il QSO e buona serata. E io, ciao, già, ci sentiamo alle prossime. Le mie sono le 7:10, non sono le 8. Il mal fatto che poi all'8 devo andare a prendere aereo, non lavoro. Ah, già si chiamava. Però è una cosa allucinante quel lineare, quello di Mario, non so che fine abbia fatto, l'ha dato a uno, ma non mi ricordo che diavolo sia, un CB a riparo che non aveva mai più restituito. Quello era l'unico con sei finali, dava quasi 800 watt dava di potenza. Una volta la voglia che si fanno a cazzo, bubu, Fattorino. Ehi, sto mangiando, che mia moglie mi ha fatto una cena oggi. Mi raccomando, piano piano, piano piano, Natali, mangia tranquillo che ti ha fatto una bella cena con bistecca e ravioli, mamma mia. Ehi, allora cosa mi ha fatto? Cosa ha fatto? Dimmi tutto. Brodino di mammo. No, non ci credo, siamo lui e mamma, già lo sai, no. Se vuoi la cosa del genere non me ne fanno, al limite mi fa pietra di cosa, di sentino. E sabbia di platano. Cosa è, dai, Natali, questa qui sempre brutto. Ah, va, cazzo, mi ha rompito pure il coglione. Come sei colorito? Boh, tutto quello. Tu stai zitto, che io non mi piace, e poi io non sono M, non sono tenuto a parlare correttamente. Io sono scurrile. Certo, certo. E beh, fra, questa antenna si può dire cos'è, ma non è 7 ottavi o roba molto grande. Franco non mi copia. No, è una Venox 5 ottavi. 5 ottavi? K. Ma quella c'era di la prima. Quella che c'era di Ari Piccolini. No, tipo la Venom. Ma la Venom non è quella che hai adesso? E appunto. No, lui le ha detto doveva piazzare una cosa migliore, migliore, quella volevo sapere. Dovevo piazzare la Game Master. Ma lascia perdere, fate un coso, guarda. Lascia perdere la Game Master, guarda. No, vabbè Antonella, il Game Master fa il suo lavoro, e poi Franco è molto in alto, quindi lavora bene l'antenna, ed è anche molto silenziosa, e c'è una larghezza di banda, non c'è stazionaria per roba i 200 canali, anche di più. 10, 11 e 12 metri qua. Eia. Gliela fa l'affare. Vabbè, l'importante è piazzarla bene, non tendere troppo il cavo interno, no, il radiatore interno non l'ha teso troppo, l'ha lasciato un po', come diceva una istruzione, un po' leggermente lasco, morbido. Se va in tensione guai, poi viene il vento, tac, e spacca tutto. Guarda Fra, quando appena cambia antenna, se lo faccio sapere, ti porti via la Mantova Turbo, e insieme la mia funziona, è nuova, quindi funziona bene. Io mi cambio il tubo, ti porti via il tubo di quello che ho io, dopodiché io mi piazzo la nuova Tornado, quella famosa che gli ho detto a Marco, 7 metri di filo, 7 metri di radiale, lasciami il tempo, 2 mesi, quello che è, poi la compro e fissando, porti via la Mantova, quello che ho io, la Mantova Turbo. Poi Antonio, ne abbiamo parlato, ti garantisco che i 7,2 metri sono riferiti allo stilo, non al radiale. Che senso avrebbe radiali da 7,20 metri? Me lo spieghi? Sto dicendo, ho visto la foto, ho anche telefonato per essere tranquillo, sono 7 metri di radiale, quindi mi piazzo quella, mi installo quella, 3 metri di palo nuovo e ce l'abbiglia in culo. Poi se ne scende, ne scende, se ne scende pazienza, non avevo più dica io Marco. Sì, Antonio, è presa dal basso la foto, la prospettiva ti fa sembrare radiali enormi, ma non ha senso avere radiali 7,20 metri poi, cioè, oltre il quarto d'onda non ha proprio senso, boh, vabbè. Questa rete è sperimentale, avanti, avanti, chi è? Avanti, avanti. Avanti il prossimo. Dai. Io c'ho il radiale da 10 metri. Dimmi Natali. Io c'ho il radiale da 10 metri. Meccano, quello del polo. Eia, me l'ho piazzato in quella scatoletta che ti ho fatto vedere. Una bomba è. Se fosse solo più alto Natali sarebbe, prenderebbe molto molto molto di più. Te credo. Però lì vabbè non c'è terrazza, c'è un macello lì, ti devi accontentare di quello che passa il governo, dai. E infatti tanto a me non me ne frega niente, dai. Lo uso per ascoltare, boh, con il ricevitore. Infatti, vabbè, come ti sei trovato con quel ricevitore lì? Benissimo. A me, io l'ho preso piccolino per le trasferte, non tanto per usarlo in casa, con te in macchina o anche in portatile, va bene, se sei in zona aperta. Qua in strada sotto al tabacchino ha ricevuto l'antenna sua, 40 metri, ma di lusso è... Con l'antennino suo sì, riceve un po', magari lo metti un po' in alto, riceve meglio, però non è paragonabile a un'antenna risonante, che sia di polo orizzontale o antenna verticale da macchina. Sono riuscito a sentire anche gente sui 12 metri, mentre per un lungo periodo 12 metri sentivo solo FT, boh, FT8, FT4, roba digitale. E poi l'altro giorno, no, anche tempo prima, ho sentito fonia sui 12 metri. Scusate, mi ero allontanato e questo cane sta uccidendo. C'era anche Luca, mi pare. Luca, ci sei ancora? Luca è innamorendi e la garuva. E c'ha ragione. E allora, è giovane e deve fare il suo dovere di maschio, capito? Altro che baracchino, eh. Sembra anche logico, Marco. Io glielo appoggio in questa cosa. Oh signore benedentro, ma io c'è nato e... Beato senza. Nato nello secolo, lato di radio. Radio. Ora. Adesso uno di te, vabbè. Adesso già sei tu. Guarda, stai usando, Tony? Il 140 stai usando. Sei tornato al 140. È sempre uguale il 140, mi ha tornato al 140. Regalala a me, Antonè, che tu non te ne fai nulla di quello. Lo vuoi tu? Dammelo, dammelo. Sì, te lo prendi adesso. Vieni in macchina e te lo prendi. Se trovi il parcheggio. Cosa ti devo dire? Apposta me lo stai facendo. Appunto, quindi se vuoi l'apparecchio vieni qui, metti un 2-3 FN nel parcheggio che c'hai, vieni te lo prendi. No, oh, dai, dai, non ne voglio, non ne voglio, dai. È un provocatore questo Pomponio. Buttaglielo dalla la finestra, Antonio, che stai prima. Cazzo, se mi piglia a capo, mi c'hai bideggia. E allora? Facciamo così, guarda, Natali, ascolta, facciamo così, sabato intanto c'è il pranzo da Cristian, vieni lì, mi paghi il pranzo e io ti do tipo 140, ti va bene? Ma chi è Cristian? Già lo so io chi è, uno che fa il pranzo, c'è prima di cedere di Versailles però, c'è anche Giovanni alla freccia, quindi... se non mi dicare... C'è il circolo di lì, capito, mangi con 10 euro, tranquillo, primo, c'è l'antipasto, poi c'è il primo, poi c'è il secondo, poi c'è il terzo, poi c'è il quarto, poi c'è il quinto, poi c'è il sesto. Ma io posso mangiare poco, che mi è venuto il diabete, Antonio. Perché cazzo, scusa, Giovanni c'ha il diabete, cosa c'entra quello? Giovanni c'è il diabete lo stesso, a un certo punto. Ma io avami per esempio mi si farà dalla glicemia a 93, mi si farà felicità dei figli è un alchimio, se non mangiavo gatto me lo di mai. Vabbè, a volte capita perché a me c'è per questo, vabbè, non ti devi preoccupare per quello. Vabbè, io piccato per altre cose, cazzo, sentendo cazzo con gli altri da un tipo, cazzo, a un certo punto si... sto bene, sto veramente bene, grazie a Dio. E a te. Antonè, dimmi. Ma l'altro giorno io, di sera era o di notte, non mi ricordo, sentivo un segnale strano qua, sembrava un baby monitor, e quando parlavano sentivo la voce di una ragazza e di un bambino, e sembrava proprio come un fox, perché come figura di parlare smetteva la portante, può essere, su 10, vabbè comunque, se è un baby monitor è da qui a 100 metri, cioè deve essere, per sentirlo sarà 10 milliwatt, sai, che hanno poca portata, sarà in zona, tu non lo potevi sentire. No, no, già è vero quello, già è vero, non solo da adesso, anche da prima se ti ricordi, è l'ufficio fa per esattezza. Telefono. Antonio, dammi un rapporto di segnale. Fammi un passaggio, te lo dico subito. 1, 2, 3, 4, 5, sì. 6, 9, 20. Va bene, allora. E ho voglia. E la radio, buon, va bene la radio. Perfetta, 5 chiara. Tappa di posizione. E la stessa segnale, stai arrivando tu. 9:10, 9:15, dai. Già va bene, adesso io domani esco con Giovanna, devo comprare la punta da, dovrebbe essere da 16 o 17, insomma me lo ricordo. Se potete passare il cavo del vicino 113 insieme alle 158, e così devo stare cazzo con questo cazzo di coso aperto. a un certo punto, dopodiché mi compro la punta per installare l'antenna Giovanna, con due tassili di quelli pronti, capito? Mi piace il paletto, già pronto, ricompro l'antenna, una BA27L, un Americo, come lo vuoi chiamare tu, costa 60 euro, offre una garzazza, almeno 60 metri di cavo e poi sono a posto, almeno parla anche lei a Baracchi, vabbè, c'è anche lì l'antenna, la verità. C'è la magnetica giù, quindi a un certo punto dopo solamente ti fa scendere il cavo fine e lo fa un culo. Dove gliela piatti lì? No, gliela piatto sopra il tetto, gliela piatto di fronte alla cosa, all'antenna VHF. Ah, a casa tua? Sì, sopra il tetto. E cazzo, ce la faccio a pensarla giù, non va bene, capito? Ho capito, ma dico attaccata alla tua, la metti lì sempre nello stesso palazzo. Sì, nello stesso palazzo, dalla parte opposta dove c'è l'antenna del VHF, hai capito? Faccio due fuori e ce la piglia in culo. Sì, già va bene, dai. Cazzo, con 2-3 metri di palo già va bene, non abbia 27 euro, non è che ci voglia questo, anche costa 68 euro meno, costa molto, una di quelle antenne va benissimo, fa stare il lavoro come ho fatto con Marco, dura anche 30 anni con l'antenna. Ma infatti già va bene, sì. E cosa compro? L'avanzo va compro. Cioè a un certo punto se devo dargli la mano, ma gli do la mia, tanto per dire, se dovessi cambiarmi l'antenna tolgo la mantova turbo e la piazzo a lei, io mi piazzo l'altra, sarei costato 98 euro in offerta, cioè 7 metri di radiali, 7 metri di stilo e costa 98 euro, non è che costi molto. Sì, ma infatti non conviene spendere tanti soldi in antenne, non è uguale la candela. Voi la mantua a turbo mio, 100 euro ti do la mia. Come il vostro nuda, ce l'ho. Bravo, ciao. Ti ringrazio. C'ho la mia, che sto regalando a Giovanna, figurati. Quindi a un certo punto non me ne faccio niente, capito? A un certo punto. Che cazzo te la vedi a fare, scusate, quando ti serve a te, non ho capito. Cos'hai detto? Ho detto cosa te la vedi a fare quando ti serve a te l'antenna, detto, a un certo punto. No. No, io ho la Game Master, no? La turbo non la piazzo più, nuova nuova, Ma io non le piazzo di... La turbo la lascio al limite a mia sorella, io mi piazzo l'altra, è molto più leggera, hai capito? A un certo punto, che sono 3 metri di palo con pesano me, a 60 anni pesano me, più cazzo, fatti i conti, 3 kg di antenna, non lo so io, a un certo punto se sta da solo. Sì, vabbè, comunque, cioè vabbè. Già me la tengo io, non ti preoccupare, che stavo scherzando, se no me l'avevano già chiesta da un bel po' di tempo, per cui non l'ho mai data e non la darò mai. È stata una Firenze 2, sarebbe stato un discorso diverso, oppure una Super Regibus, ma a un certo punto non me ne faccio nulla. Solamente mi soldi per l'antenna per Giovanna e basta, a installare la casa sua o la BA27L, adesso vediamo un pochettino, adesso vediamo questa Tornado che costa 98 euro, che ha 7 metri di radiale, 7 metri di filo, installo quella leggera ed è perfetta. Io mi lascio la mantova e va a far cuffia. Dopodiché c'ho l'antenna per le bue, per le U e basta. L'altra antenna con la come si dice, quella VEU in acciaio, quello la stacco, perché che pesa più di 4 kg e ho paura, o sai che qualche giorno quando fa vento così, che esso, è un casino, questo cazzo di vento, ho paura, capito? L'attacco e ce la metto in garage. Sì, vabbè. Andiamo, non c'è problema. Figurati. No, non la do, me l'hanno chiesta già da tempo, no. Non la do, assolutamente. No, stavo scherzando. Anche se non la uso, però mi piace averla, mi piace tenerla, capito? Nuova, nuova, vabbè, questa volta proprio perché fischiava. Io dunque durante la notte fischiava e, no, e non mi andava. Se no già è ultima, un'ultima antenna veramente. Comunque va bene così. Franco, mi senti? Franco, non vi dirà sì. Ciao Giù. Ciao Giulio. Ciao Marco e ciao Natalino. Sì, sì, sì. Va bene così, dai. Va bene, dai, prendi tu Marco, dai, col mago d'ascolto. Continuate. Eia, era il telefono e vabbè. State parlando di antenne sempre. Antone, ma tu questa tornado perché la vuoi? C'hai la... cos'è tu, la LEM? No, non è LEM, è... come si chiama? Non mi ricordo se è la figlia o vediamo comunque sia. Se ti metti in lunghezza, vabbè, allora copiando dentro, copiando al limite il mese prossimo, quello è il problema. Hai capito? 98 euro, va bene. Non faccio altro che farmi arrivare la mia nipote e poi vediamo un po' che io quando lei salva. Stacco la... cioè, stacco. Non stacco niente perché è troppo da staccarci. In pratica lascio l'antenna dove è quella che ricordo che ho e la passo dentro l'entra. E dopodiché io mi installo quell'altra. E vado lo stesso, a stessa altezza, non mi cambia niente la verità. Mi si è abbassata attorno alla radio. Sono la radio, mi si è abbassata. E adesso, mi si è abbassata la radio? No, va già, si è finito. Però poco fa non ti sentivo uguale. Sì, Antonin, beve, tu che antenna hai al momento? Non mi ricordo se è una LEM o se è una Sigma 5 ottavi. Ma sto usando la Mantova Turbo, sto usando. Sì, ma tu come mai volevi la Tornado, che se vogliamo è inferiore? È più leggera, mi dici tipo leggero, è più fine, e ho letto su internet che il punto debole è l'isolatore, quello nero, quello in materiale plastico, polimerico, lo è. Se si rompe lì. È un dirigente, si è rotto lo stesso. Beh, Giovanna, più che altro, capito? Perché? Giovanna. Ah, per Giovanna, ho capito, ho capito. Hai capito? Cosa faccio? Installo l'antenna per Giovanna, hai capito? E la metto di fronte a quella che ho io, alla antenna della VHS, la piazza lì, faccio due fuori, metto un paletto da 4 metri e installo quell'antenna, è leggera, più alto, basta e avanza. Se Giovanna vuole la Mantova, gli metto la Mantova, se vuole l'altra, gli metto l'altra. Non cambia nulla, a me non mi cambia nessuno. Non mi dà nessun problema, il discorso è quello, capito? Davvero, sì. Ma non mai capito, tu che mi hai fatto schiacciare il telefono. Vieni, Cristian, vieni, ti aggiusto io, vieni. Vieni tu, ti faccio schiacciare, vieni. Adesso lo facciamo schiacciare, questo Alessio. Comunque Giovanni Barattino ce l'ha già piazzato, per essere chiaro. C'è la magnetica messa nel terrazzino, che gli ho messa io. Il discorso è che poi cazzo, è arrivato quel cazzo di vento brutto, io volevo salire il cavo facendo finta di niente con la magnetica, contentamente il cavo sopra il tetto, invece mi sono trovato inculato, cazzo. A un certo punto ho detto, se salgo sopra, se vado io, se vado. Antone, per Giovanna dove la metteresti l'antenna? Sul tetto lo stesso o su qualche balcone? Sopra il tetto. Farete venire un infarto all'amministratore. Cazzo, giù, insomma, me l'ha tenuta. Tu come facevi secondo te? Due antenne e l'altra appartamento, così faccio anch'io. Io sono all'ultimo, lei è al primo, quindi il cavo c'era già pronto, 30 metri, fino a salire sopra, dopodiché aggancio. Siete talmente in alto di tetto lì che non sapeva anche una Venom, lo sai, una Venom mezz'onda, anche 5 ottavi, perché no? 40 euro ti sei tolto la seccatura, l'importante è stagnarla bene, se la stagni bene potrebbe durare abbastanza. Oh, Giovanna c'è di lineare. Così è. E da quanto è il suo lineare? Un kilowatt? Sarà 100 watt? Persino la Venom lo regge, dai. Dopo, guarda. Allora, vieni con la marca. Lineare Power ZG, modello B2002. Fatti i conti, 6 posizioni. B2002 è roba transistorizzata da base, ho capito, delinquente, gatto. Appunto per quello glielo ho preso, e quindi sappiate cosa ci avete dietro, un pugno, nel caso io dovessi morire in qualsiasi posto, eccetto cambiare le balle, la portata ce l'avete tutti i giorni. Molto ci vuole farti schiattare a te e a lei. No, io se ci ho schiattato, al limite a lei, se io sono morto, la portata che te la mette, a meno che non te la metto da sopra io, quando ci vedremo. Giovanna poi ha una bellissima voce in radio. Lui, se uno non le deve dire di quelle cose, le deve fare e bus, perché se le dice poi si espone a vendette. Qua sono tranquillo io ormai, grazie a Dio. Sì, Pomponio schiva le pallottole, e mi raccomando che non l'abbiamo arrestato in tutti questi anni. E infatti. Guarda, mi sembra 2 settimane fa ho visto il medico di Marco, il coso, quell'apparato che avevo io, quello bello, con le valvole, che Giovanna è entrata quando era piccola, che figura si chiama la bella di, mi sembra 12 anni, cosa del genere, che ha usato la parecchia valvole lei, io non so come diavolo l'abbia fatto. Beh, l'ho visto io 2 settimane fa, volevo comprarglielo, pensavo 250 euro, stavo per prenderlo, è che non c'avevo i soldi in mano, se no gliel'avrei comprato, senza dire niente l'avrei già, l'FT 250, quella valvola, quello che piace a Talino, nuovo era. Vabbè, però, ma perché, scusa, non basta un baracchino che esca bene, limpido di modulazione, cosa chiedere di più? Ma Giovanna era proprio innamorata di quella parecchia lì, è stato il primo che ha usato, sai cosa vuol dire, il primo apparato a 12 anni, tu dimmi tu, come cazzo ha fatto a usare quello, una cosa del genere, un apparato a valvole, che vuole mica un casino mi usarlo, la Torino già lo sa anche lui, dimmi tu la Torino come funziona quell'apparato qui, prima di farlo di farlo andare in trasmissione, bisogna fare tutto un procedimento strano. E io già li ho dati, quindi già lo so come funziona. Ma cos'è sta roba? La radio di Marconi, aio, è obsoleto. Mamma mia, tu aspetta cosa c'ha? Load, plate, sì, devi tarargli le valvole in base al canale dove vai, la frequenza dove vai. Più sta guardando, la foto è sfocata, non si capisce però, vabbè. E il preaccordo di insomma, fatto sta Giovanna l'ha saputo usare, dai. Figlio di un grido, ad un ricciale, figurati. Adio, test, test, test. Adio, test, test. Si sta volando, ecco, load plate, grid, cos'è grid? Grid, griglia, ma sempre, boh, sarà qualche accordo. Funzioni, refgain, volume. Mamma mia, che cosa obsoleta. Sono apparecchi rigidi, a valvo, legati. Sì, ti sto dicendo, per poter usare ci vorrebbe accanto un cosa, ci vorrebbe, va, sto dicendo, a parte la massa a terra, perché tirava la scossa, la cadena se lo ricorda, però era bello, 100 watt tirava, manda stretta, quello che non sentivi, i vicini di casa tua, neanche a 20 metri, intanto per dire, tu parlavi, io non sentivo nessuno, sentivo solamente che volevo io. Allora aspetta l'apparecchio. L'hanno venduto un mese fa, 300 euro, guarda, se avessi avuto quei soldi l'avrei preso, detto Giovanni, se l'avrei comprato come regalo, detto di Natale, io ho detto guarda, la verità. Se gli volevi regalare, facevi prima a comprarli un 7000, almeno è più facile a usare. Attenzione, no, io c'ho 1900 Giovanna, ce l'ha comprato, 90 euro l'ho comprato, la verità, cioè non è che ti le cose, è sempre stato 1900. Avanti Gianni. Ehi, buonasera a tutti, non i lascetti bianco, no, ci ho avuto io di Giaventi. Buonasera a tutti, sono rientrato, sono la parabola, direzione in croce della morte. K89 oscillante, quale hai? Con l'antenna famosa nuova? Sempre con quella, l'altra non c'ha manco più il PL perché l'ho usato per questa. Eia, l'hai cannibalizzata, dai, va bene. Natalino, vai per Gianni. E K, dai, io vado a farmi il caffè. Al limite ci sentiamo dopo. No, te ne fare il caffè che poi non dormi. Una cosa, non dormo. Non dormo normalmente, figurati. Fatelo decaffeinato, Natalì, come faccio io? Mi sembra un'idea eccellente, peraltro, fra poco me lo faccio anch'io il caffè. Chi altro c'è rimasto qua? Oh, c'è una cosa strana sopra la vita. Ci sono due macchie nere qui sopra. Non ho capito se è roba di uccelli o da cazzo sia, boh. Due macchie nere. Alessi, a te come ti arrivo? Bene, bene, non ti preoccupare. Sei perfetto. Gava, gava, dai, gava, dai. Già va bene questa antenna. Sono soddisfatto. Piccola e sincera. Sì, piccola non tanto, dai. Sì, confronti all'altra, chita è grossa, pesante, questa qua è leggerissima. Però la lunghezza, quant'era quello? Un metro e mezzo o 1,60? 1,60. Buono, buono, buono. Perché deve essere la gemella di quella che ho io? No, questa qua è fatta in Germania, non è fatta qua. No, vabbè, qua cosa fanno più? In Italia non fanno niente. Vabbè, io, vabbè, questa qui l'ho ordinata alla Germania, in Italia non ce n'è. L'ho ordinata alla Germania. Sì, avevo controllato, quella è una marca polacca, Gianni. In Polonia è molto conosciuta. E in Germania vanno molto i prodotti anche della Polonia. Probabilmente è perché vanno bene, dai, bene, dai. Se no non l'avrebbero presi. Sì, poi sai cos'è? Con lo stile di antenna, se tu guardi Hazard, e loro la mettevano con l'attacco a baule, il baule posteriore della macchina, no? Che loro avevano le macchine tre volumi, se ti ricordi, e c'erano antenne tipo queste, con la base così e lo stile d'acciaio. Infatti la CPE, quando le ha portate nei primi anni 80, le vendevano con nome American Style, queste antenne con questa forma qui, e addirittura te le davano in più colori, c'era blu, azzurra, rossa, nera, in base al colore della macchina ti abbinavi anche la base magnetica. Questa è nera, la base magnetica è la carica trasparente. Ehi, quella è bella, finché rimane lucida la bobina è bella, però si può anche lucidare, se si opacizza con gli anni, credo che vada bene anche per non usare pasta abrasiva che ha solventi lonfi, anche con dentifricio mi pare si possa fare, lo stesso che si usa per i fari delle macchine, per lucidarli. Ma questa non si opacizza perché io la uso diciamo saltuariamente, non è che la tengo fissa, capito? Se lo usi all'occasione ti dura tutta la vita, ti dura. Non la tengo fissa, io la smonto, poi come finisco la smonto la porto via. Già, dove sei arrivato? No, sono ancora a Sant'Orsola Nord. Il segnale va e viene, un po' 9, un po' 9,5, un po' 8, un po' 7, un po' 9,5. Sono in mezzo ai palazzi, Marco. Sì, arrivi sempre, tappa. Marco. Ciao Robby, avanti. Buonasera, ho sentito a te, ho sentito a Gianni, non ho fatto ascolto, c'è qualcun altro? Il carabinieri di Andara. Chi c'è? Il carabinieri di Andara, ciao. Ciao, a te ti riconosco solo la tonnella del segnale, però la modulazione è che strano. Accidenti, noi ci vediamo tutti i giorni, figurati. Ti vedo sempre tutti i giorni io. Che radio è questa? Ho capito. Che radio è? Il 140 è. Però non è il microfono suo, è un altro microfono. Microfono suo, originale. Bene, poco fa forse ce l'avevi girato, non riuscivo a capire quello che dicevi. Ma cos'è il palmare, no? Ehi, a palmare. La prossima volta che vengo dove lavori tu me lo metto in bocca il microfono. Come hai parlato, solo il segnale ho riconosciuto, però non ho capito quello che avevi detto. Probabilmente ho andato troppo vicino alla bocca, non lo so. Adesso ti ascolto meglio. Ah, ok, meglio così, sono contento. Procedo con... Ecco, adesso con 15-20. Me lo fate salutare a Roberto? Ehi, avanti, avanti. Ehi, ciao Roberto, hai sentito? Buonasera. Ehi, 9:15 dalle mie parti, dove sei già? Sono esattamente uscendo da Sant'Orsola per la 131. Ah, tutto gonfio al solo, tutto gonfio. Ciao Luca. Beh, Lucrezia, rientrato sì. Ah, sto uscendo adesso. Ah, vabbè. Aspetta, ti parlate in 40, chi è avanti? Dell'incrocio della morte, dai. Natalino. Vi saluto tutti con la buonasera e me ne faccio il QRT. Ciao a tutti. Ciao Natali, ci sentiamo, buona serata. Ciao Natali, alle prossime. Ciao Natali, ti hanno sovramodulato per un attimo, comunque sono riuscito a capire che sei tu. Già prima era l'incrocio della morte, adesso è la rotatoria della morte. Vabbè dai, già mi è capito. Sorsoli Bidriatti. Sì, sì, la cosa buona è che il segnale è abbastanza costante, cioè sale un po', scende un po', però siamo lì, la media è quella, intorno a 9, dai. Adesso sono lì punti. Vabbè dai, ci stai avvicinando a Sassari. Ciao, vai Robè, riprendi. C'era anche Franco prima, però un po' entrava e usciva, poi non so chi altro c'è. Franco, ci sei? Da Franco chi? California. Roberto, come sta arrivando adesso? Sono ai punti, dai. A me 9:15 costante, non ti sei mai abbassato. Ciao, va bene. A me mi ascolti sempre bene, naturalmente. Bene, l'hai detto. Vabbè, io sono in postazione fissa con l'antenna fissa, se ti ascolto io sicuramente mi devi ascoltare anche tu come minimo. Sì, ti ascolto bene Robè, mi sembra vicino quando sei entrato addirittura. Vai Antone. Antone, fuggito. Marco, tu che radio stai utilizzando per curiosità? Sono qua. Sì, Robè, allora sto usando un presidente, aspetta che, Taylor quarto. Un 40 canali da macchina piccoletta MFM, proprio cose base. Ma è una radio nuova? No, ce l'ho da mesi. Ce l'ho il quarto, piccolino, display a lancetta e poi c'è il display piccolino LCD per i canali e funzioni. Però gli hanno tratto lo Smith era 100 microvolt S9. Sì, praticamente è secco, da un Santiago in meno, a circa 50 microvolt, la Presidente al vice di parlare a 100 microvolt, quindi è abbastanza secco, dai, diciamo. Vabbè, non c'entra niente, anzi per certi versi, a meno se c'è il segnale troppo forte non ti va in saturazione lo smite. No, ti ascolto molto molto bene, ma una radio di nuova generazione o una radio vecchia? No, è tutto SMD, è roba recente, anzi roba vecchia, credo di averla data tutta, amiche. Io quando c'avevo radio, magari vecchie, ma funzionanti, tutto a pomponi avevo dato, il Viking, quell'altro, il Connex 4000 Echo, l'FM 500, un sacco di roba ho dato a lui. E queste sono tutte SMD, però vabbè, la modulazione è importante che sia limpida poi. Perfetto, una telefonata, ma tu avevi anche il 3009 o il 6009? Conferma. Tutti, 3009, 6009, 7009, 9009, più un'altra infinità di apparati che non riesco mai a contarli. Cappa, vediamo Gianni se è ancora in movimento, ci sei Gianni? Io sono in movimento e sono all'interno, dai. Sono all'interno delle stradine in campagna. Qua sempre 9.10 lo superi, poco fa era un po' più forte, 9.15, adesso lo superi 9.10. Antonio, riprenditela. Mi sta allontanando, Robert. E ho rilanciato Antonello, ci sei Antonello? Nulla, e dimmi una cosa, che hanno chiesto informazioni, tra il 3009, Marco, tu che li hai avuti, e il 9009, cosa cambia? Aspetta, tra il 3009 e il 9009? Ehi, a cosa cambia? 3009 e 4005, c'è il 4005, va fa culo, quello con l'Echo. Aspetta Antone, allora il 9009, il 3009 ha componenti classici, niente SMD, componenti classici, facile da riparare, da fare le saldature, funzioni base, potenza non regolabile. Il 9009 è tutta un'altra cosa, SMD, sono derivati in banda in FM, tipo 60 FM, lo stesso in banda laterale, 30 modulati in AM. Però è un po' caotico il frontale, allora ti spiego, il frontale è molto piccolo e praticamente c'hai il menu suddiviso sui vari tasti o manopole, quindi se premi un certo menu hai alcune funzioni, se ne premi un altro altre funzioni, e ogni volta ti devi ricordare dov'è la funzione che ti serve nei vari menu, è un po' caotico. Io scommetto che per, aspetta, forse l'avevo sentita la discussione, per Carlo, no? Eia, quindi è consigliabile 3009, e se 3009 invece cosa c'ha di diverso? Il 3009 ha funzioni base, volume, squelch, mac gain, ref gain, poi queste SVR carpere stazionarie, che non serve a niente, poi bande, modo di emissione, e poi clarifier e fine coarse, dai. Peraltro nuovo non lo trovi più, non lo vendono più, è uscito fuori produzione roba, il 3009 nuovo di fabbrica, dai, di negozio. Calma, scusate il monopolio, vai Gianni. Comunque secondo me... Guardate, io sto andando, io devo cercare un'insenatura, se no non me la metto. Robè. Aspetta, c'era Gianni, stava parlando, cosa hai detto Gianni? Continuare che io mi sto per fermare, dai. Adesso purtroppo la propagazione sta aumentando, 9.5, sì, quasi 9.10, però arrivano gli smatter di questi, non so, sono spagnoli, russi, non lo so. E cosa ha detto Marco? Ha detto che quindi è consigliabile 3.009 uno che se la compra una radio, se lo trova buono. Sì, però trovarlo non scacciavitato, oppure fatta le cose base, no? Modulazione e deviazione FM, basta. Al limite la centratura, sommaria. Però siccome se non lo trovasse, il più intuitivo è il 6009, con tutti i suoi nomi, Aniton, HR5005, perché la maggior parte delle funzioni ce l'hai sia con le manopole frontali tipo 3009, sia con quei tastini quadrati in alto a sinistra. Lì c'è la maggior parte delle funzioni, poi c'è delle funzioni speciali attivabili da menu, però sono cose di solito che tu regoli una volta e poi non le tocchi mai più. Quindi 6009 è più intuitivo, sì. Potenza regolabile, ci puoi pilotare linea retti senza andare in saturazione, vedi me, eccetera. Facciamo prendere Antonello che è parcheggio. Ehi, ok, io sono qua, non c'è problema. Vediamo un po'. Giovanna, ci sei? Giovanna? Ecco, non ho accesso. Fa poco che arriva Giovanna. Con l'apparecchio tuo, Marco. Oh, Ia! Eccomi qua! Incrocio della morte da parte mia, rivitto. Marco, il 3009 e il 6009 e il 9009 sono omologati. Marco Gaga. No, già arrivi, il croce della morte, già abbiamo copiato, sì, un po' più basso però, forse dipende, ha proprio beccato il punto un po' più negativo, dai. Allora, no Robby, assolutamente, 2009 nasceva omologato, poi con una modifica, ampliamento bande con lo spostamento di un ponticello con la mano, con le dita, vabbè. No, né il 6009, né il 7009, né il 9009 sono omologati, nascono come apparecchi per i 10 metri. Infatti appena li compri hanno i 28 mega, no? Poi mi pare spegni, premi due tasti, lo accendi e selezioni la banda, cosa è. Però la cosa bella è che sono programmabili, quelli là. Quindi tu ti puoi fare i canali base, no? I canali alti, i canali bassi, li puoi fare, che ne so, una banda riservata ai canali inglesi, quelli in FM. Ti puoi memorizzare l'ascolto dalla banda amatoriale con lo zero finale, per esempio, cosa già fatta, ti puoi programmare se li vuoi ascoltare lo stesso con lo zero finale, i punti in FM sui 29.6, 29.7, carino. Passo, facciamo prima avanti a Gianni, che gli ho parlato sopra, ha detto sono arrivato, vai Gianni. Io sono fermo adesso, dai, sto aspettando la mia compagna che esca al lavoro, e poi rientro verso casa. 9, quasi 10, dai, ti ascolto sempre. Chi c'era qui? Altra gente c'è qua? C'era Franco, poi non so se ne sia andato. Ok, Marco, ti stai aiutando tu o che cosa? Voglio il mio avvocato. Eh? Voglio il mio avvocato. Cosa voglio il mio avvocato? Sì, Robert, sì. Infatti, oltre a 9.40 sei qua. No, questa è la battuta, facevano tra amici, come vi posso il blocco, no? Buongiorno, voglio il mio avvocato, ma non ho detto niente. Tu sì. Che disgraziato, e ti immagini che ti ferma, voglio il mio avvocato, ma quello io non ho neanche parlato a un certo punto, fate che mi metto, ce lo tenga. Ehi Antonè, comunque Giovanna qua non arriva, se sta parlando ancora non arriva. Cosa ti volevo dire, Robert? Poi c'è il 7009 che d'aspetto è bellino, però vabbè, molte funzioni c'ha la frontale, però c'ha quella presa microfonica brutta RG45 che non si può vedere. Capa, ieri, anzi domenica, ho visto questo baracchino nuovo americano, aspetta, vi dico il modello ed è una cosa da paura, si chiama, aspetta un attimo. 3, 4, 5, 6, guarda qua Giova, mi senti? Niente. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, mi senti adesso? Prova un po'? Oh, ti sentono, ti sento basso di segnale, strano, aspetta che ci do giù un attimo. Antone, no, è senza antenna, controlla che non ha connessione, qua a zero, da te basso, figurati, guarda che bruci tutto. Infatti sto scendo giù adesso, lei a me mi sente, ma io senza lei. Adesso scendo il controllo. Marco, cerca su internet Black Max DX2547, un apparecchio americano da paura, una stazione base nuovo appena fatto, 45 watt, c'ha doppio ricevitore, è una bestia, è un baracchino da paura americano, c'ha 32 menu, sotto menu, tutto digitale, una cosa DSP, c'ha tutto il possibile immaginare, sembra un HF questo. Ripeti? Black Max con 2X DX2547, cerca questa radio, dura una mezz'oretta il video, ma è da paura, magari mandala avanti. 1, 2, 3, prova, già va? Mi senti, sì? Ma con chi stai parlando, Antonio? C'è Giovanna che non sta uscendo proprio, non c'è antenna, non arriva manco l'Antonello. Ma che Marco, aspetta un attimo. Ah, stai che ho attaccato il numero sbagliato. Sì, allora Robè, sì, l'ho vista, ho visto la foto per ora, poi mi guardo il video. Allora, quello è un apparecchio che piaceva molto al doppio room, piaceva molto anche lui, o quello o il predecessore, sembra quasi un HF. Sì, sì, è bello, è nuovo, nuovo, nuovo come radio, non è vecchissimo, poi avevo visto il, come si chiamava, cavolo, che quello proprio era un HF, che era uno spettacolo di radio, bello, con una maglia di futuro, questo è nuovo, questo è un po' più bacioccone, un po' più grosso, però se tu guardi il video cosa fa questa radio, e poi lo mettono sotto strumenti per fare le prove, quanti watt eroga, 45 watt tira, e poi hanno esatto rispetto per vedere la pulizia, eccetera, una radio americana, non è roba fatta cinese, dai, economica, infatti chissà cosa costa una radio. Gianni, vediamo se se la ricorda, Gianni. Eia! Ti ricordi quel base americano nuovo che ti piaceva tantissimo, che sembra una HF? A voglia se me lo ricordo. Te l'ho detto che io se quello lì usciva in vendita me l'avrei preso. Comunque Robè, bella. Vabbè, sapuriamo sul display. Vabbè, gli hanno voluto fare i LED per dargli un gusto retro anziché i display LCD, però c'è un particolare che per noi europei è inconcepibile, sacrilegio, indovina cos'è? Dico solo europei, no? Rispetto agli americani. Io ne avevo visto uno che non mi ricordo il nome, però era già qualche anno fa, un 7-8 anni fa, non mi ricordo cosa, ma era oltre che micidiale tutto display, il TS2000, non so se lo conoscete, della Kenwood come radio, molto molto simile al TS2000, col display ad arco, tutto fluorescente, fluorescente, LCD, un display enorme con l'indicatore, come molto simile a cosa, una marea di funzioni, ma era come la CAE. E poi c'è quello, il Saturn Echo, quello che ha fatto quell'italiano con tutto il possibile immaginabile. Oh, ma quella è un'opera d'arte. Hai visto tutta la roba che ci ha fatto entrare dentro, l'alimentatore, la lineare, tutto il sistema gestionale dell'analizzatore spettro, del ricevitore, le serie, un capolavoro quello lì. Comunque, vabbè, non avevi capito, questa radio qua, il 2547, c'è una cosa inaccettabile per noi europei, per me, indovina cos'è? E cioè? Non ha l'FM, e vedo solo AM, FM e l'SB USB, cioè. Scusa, AM e banda laterale, non ha l'FM. Ma sei sicuro? Ma io ho la foto qua, è marcato Galaxy però qua, non so se l'altro abbia l'FM. Vabbè, per loro va bene così, per quanto l'FM la stiano introducendo un po' negli Stati Uniti, però non è roba per loro, cioè, guarda che anche noi. Guarda, io ho visto le prove, come si chiama, di modulazione tutto quanto, ma mi sembra che c'era l'FM nel video, dura una mezz'oretta, 28 minuti il video, e mi ricordo che c'era, poi posso sbagliare, però è nuovo, è un video nuovo che hanno fatto da poco questo. Ti ricordi l'autore del video? Ho capito, aspetta, non è uguale al Galaxy però, non è uguale, proprio uguale, questo Black Max ha il display blu, e può darsi che abbiamo messo anche l'FM qua, aspetta che lo apro il video, l'ho trovato, Non c'è niente a che vedere con Galaxy, è tutta un'altra radio, niente, è un prodotto nuovo, appena uscito questo. E anche quello che hanno fatto da poco è Galaxy, ed è fatto da poco, è un nuovo tipo di apparecchio, l'hanno chiamato Galaxy. No, questo non è Galaxy, non c'ha niente a che vedere. Quello che stai dicendo tu, che è uno spettacolo, che c'ha il monitor, c'ha l'analizzatore di spettro, i filtri, l'indicazione waterfall, il coso, la modulazione, c'ha tutto, DSP, è una radio assolutamente. Questo è bello che c'ha due doppio ricevitore, c'ha due digitali, poi c'ha 32 menu che puoi entrare in sotto un menu con il coso. Sembra una radio HF di ultimissima generazione. Secondo me questo non costerà meno di 800 euro questa radio. Allora Robè, sì, ho visto che gli hanno cambiato il display dei canali, gli hanno fatto un display cristalli liquidi con i canali e la frequenza in piccolo, più frequenzine tra LED a destra, però guardando la manopola dei modi di emissione confermo AM, USB, LSB, niente FM. Allora di frequenzine te ne ha due questo, se noti, poi senti nei menu, c'ha diverse funzioni. Sì, sì, sì, detto, detto. Due, due ne ho fatti. E vabbè, a quel punto, se c'era già uno, l'altro più decimali, diciamo, dai. Sai, i decimi, i, cioè, voglio dire, 10 Hz e 100 Hz. Forse c'è ragione, lo sai, vedo, USB, AM e LSB. Poi cerco, c'è un esatto rispetto piccolino, oppure adesso lo sto guardando, no, bello già, bello, poi guarda, lo smitter qua, solo lo smitter vale, vale tutto l'apparato, guarda, è bellissimo, guardati il video, però dopo 10-15 minuti inizia un po' fastidioso e vedi, con operativo, lo mette con tutte le funzioni ed è da paura questa radio.